Cappa, se stai così però è impossibile. Ho mal di schiena. Vabbè, ma stai così a 90 gradi. Allora? Uno potrebbe appoggiarti un piatto. Appoggiarti. Un bicchiere sulla schiena. Sposta il microfono perché così non si sente niente, vedi? Devo stare dritto perché si senta. Tutto dai, bene? Sigla, va? Sigla. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Allora, Tagesmutter, sai cos'è? Tu che sei germanofono. Deine Mutter, tua no. madre. Tagesmutter. Cos'è? Tagesmutter, vuol dire madre, del giorno, durante madre, il giorno, no? Durante il giorno. E perché in Salento, leggo, che ci sono le prime Tagesmutter italiane con diploma. Perché tutti Mütter, diploma, è plurale. Diploma, non si dice così. Hai capito? Vabbè, allora in Salento non si mette mai al plurale. Le prime Tagesmutter. Le parole allora. Straniere vabbè. In italiano. Ah, è vero. Ragione. Quindi le prime Tagesmutters. Non si dice i films o i files. E nemmeno le Tagesmutters. Quindi, no, quindi esatto. Tagesmutter, diplomati. Non ha la S, non ha la S, va bene. Caso. È la Mütter. Allora, hanno il diploma, capito? Di Tagesmutter, c'è scritto qui, quindi carta cante, documenti carta alla mano. Ieri il bambino Alberto diceva di asili abusivi, cioè appartamenti piccoli, magari sporchi, in cui ci sono 7-8 bambini che vengono tenuti per la giornata. Bene, in lo Salento diceva invece. Il bambino Alberto ieri, dobbiamo dirlo anche oggi. Oggi noi diciamo che qui hanno risolto il problema in Salento perché fanno tutto a regola d'arte, ci sono le prime 15 Tagesmutter diplomate. Vabbè, ma sono babysitter. Ma no, Tagesmutter suona più severo. Tagesmutter, poi sono loro, non è che vengono a casa Rottermeier. Tua. Tu porti il bambino a casa della Rottermeier, capito? Hanno case adatte all'uopo e accolgono anche 5 bambini per tutto l'arco della giornata. Che poi tutto non ho regolare. Mai capito se è Rottenmeier o Rottermeier. Nemmeno io non l'ho mai capito. Comunque le Tagesmutter per bambini saranno anche una novità, ma quelle per adulti lo sono un po' meno, siamo abituati, in che no? Senso? Ma come in che senso? Drago, le badanti, no? Le signore disposte ad accoglierti in casa anche tutto il giorno, capito? Che paghi, sì. Ci sono le citofoni, sì. Le badanti, no? Le badanti, Drago? Non si chiamano né Tagesmutter né badanti, no. Infatti, hai ragione. Asilo nido. Allora, qui noi dobbiamo intenderci. Io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido. Allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna fare così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33? Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Vai, dai! C'era un piccione, si chiamava Pio, era l'animale della terapia, ma dopo 2 volte non l'abbiamo più visto e allora mi rivolgo a chi l'ha visto. Senza Pio siamo in sbattimento, perché, per esempio, poi quando ci danno la merendina e poi dopo vomitiamo tutti. Madonna, sta base! C'era un piccione, si chiamava Pio, era l'animale della terapia, ma dopo 2 volte non l'abbiamo più visto e allora mi rivolgo a chi l'ha visto. Senza Pio siamo in sbattimento e dopo quando andiamo a correre prendiamo freddo la pancia e poi in ogni caso poi ce la facciamo addosso. Allora, qui non ci riesce andare avanti! Allora, rifaccio l'ultimo pezzo e basta, che poi devo... Ma dopo 2 volte non l'abbiamo più visto e allora mi rivolgo a chi l'ha visto. Senza Pio siamo in sbattimento e adesso e poi è un gran tormento che quando e allora e poi ci abbiamo la nausea e allora io smetto perché la base non va più. Mario Balotelli ha dato fuoco alla sua casa inglese tirando dei petardi dalla finestra del bagno, poi il giorno dopo ha fatto 2 gol nel derby tra Manchester City e Manchester United mostrando una t-shirt con su scritto Why Always Me? Perché sempre io? Ma cosa di cosa è calcio? Calcio. Balotelli è un calciatore, no? Certo, un calciatore Balotelli. E tu insisti a parlare di calcio. Ma perché se cerchi l'infantilismo devi anche interessarti a uno come Balotelli, che è un eterno bambino capace di imprese impossibili, tipo appunto dar fuoco alla casa. Coi petardi. E poi Why Always Me, capito? È diventato un tormentone in Inghilterra, adesso tutti vogliono avere una t-shirt così. Ecco. È uno che crea delle mode, dei tormentoni, poi gioca anche bene quando vuole, quindi è un grande Balotelli. Non so niente, so solo che è di Brescia, però mi fido di te. se è davvero un bambinone combina guai, ha in fondo la mia simpatia, a prescindere dal fatto che sia un calciatore. Io credo che in ogni ambiente lavorativo Drago serva veramente qualcuno che non si prenda troppo sul serio. Nel nostro caso, qui a chiedersi, io sei tu. Io sono serissimo, Drago. Tra noi due tu sei più serio. L'abbiamo già fatto sto discorso, io sono serio perché il mio lavoro consiste nel non essere serio. Vabbè, ma qui siamo alla filosofia, siamo alla logica. La logica. E quindi... sono serio pur non essendo serio. Ma no, capito? Non puoi essere serio se non sei serio. E poi non so se tu sei più serio di me o meno serio di me. Sicuramente non sei sario. Vabbè, essere sari non è così facile. No, essere sari, che ne so, come Augias o come Rodotà, è difficile. Ecco, Balotelli, ad esempio, non è mai stato inserito nelle liste delle persone sarie dei nostri ascoltatori. Evidentemente i nostri ascoltatori prendono la lista di persone sarie molto sul sario. Sì, però fa male, perché poi se devi anche invitarle a cena queste persone sarie, allora uno come Balotelli magari serve, perché tira due petardi, capito, a mezzanotte, dà fuoco alla casa, insomma, ravviva un po' la festa. Forse sì. Il calcio non ti va bene, parliamo di automobili, così sei contento. Finalmente, le macchine. Io e te in due facciamo l'uomo italiano medio. Io appassionato di calcio e tu appassionato di automobili, no? Mancano le donne. Vabbè, quelle ormai sono ricordi di gioventù, eh. Drago, Madonna, ma porti sfiga. Vabbè, dai, allora, automobili nel senso di BMW M5, il prossimo modello da 100.000 e passa euro della BMW. Sì, però esce nel 2012. Bravo, sì. Vedo che lo sai, ma oggi, visto che il mondo è bambino e i bambini governano il mondo, puoi già guidarla in anteprima. Prima, con l'immaginazione, stando seduto sul divano, con una roba che si chiama Forza Motorsport 4, una specie di gioco, non so. Ma non è mica la stessa cosa, ma di guidare, vabbè, certo. Evidentemente c'è un mercato di bambinoni come te che si comprano tutto l'ambaradan per guidare virtualmente questa BMW. Vabbè, ma perché M5. Basta comprare quel gioco lì, cos'è Forza Motorsport? No, beh, devi anche prenderti il set completo della Fanatec con volante, cambio e pedaliera. Ah. E anche l'Xbox 360 se non ce l'hai già. La Madonna. In più consigliano anche di comprare un ventilatore per simulare il vento nel caso in cui guidi il modello cabrio. Ma cosa dici? Sì, un ventilatore speciale che segue l'andamento del gioco, si sposta a seconda della direzione in cui giri il volante, insomma, roba saria. Quanto costa sta roba in tutto insieme? Tanto, però meno della macchina vera che costerà più di 100.000 euro, capito? Però sai una cosa, preferisco leggere 4 ruote, costa 5 euro, dura un mese. Yes, I'm gonna be a star. Sai che Balotelli cosa ha fatto? Baby, I love you. Ha comprato due vespe in un pomeriggio. Beep, beep, beep, yeah. La mamma gli ha detto: comprami un ferro da stiro. E lui è tornato con due vespe, un sacco di altra roba su un camioncino e si è dimenticato il ferro da stiro.